Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861, lo scandalo dell'ex questurino Filippo Curletti. Imbarazzo è il meno che si possa provare negli ambienti del governo di fronte a quanto in questi mesi del 1861 è emerso con lo scandalo Curletti. Il caso è scoppiato quando un giovane criminale pentito torinese, Vincenzo Cibolla, ha cominciato a parlare. Nel corso di un primo processo nell'860, Cibolla ha accusato i suoi complici nella temibile associazione criminale della Cocca, che aveva terrorizzato Torino dal 1856 al 1858. Poi lo scorso agosto, durante un secondo processo, Cibolla ha rivelato che il capo della Cocca era addirittura Filippo Curletti, delegato della questura torinese. Scandalo enorme. Curletti nel frattempo ha fatto carriera ed è a Napoli. Dopo un drammatico confronto con Cibolla in tribunale, a Torino viene smascherato, ma non arrestato. Il 10 settembre la Gazzetta del Popolo annuncia che il Ministero dell'Interno lo ha sospeso dall'impiego e il procuratore del re ha aperto un procedimento a suo carico. Troppo tardi. Curletti è già fuggito all'estero, mentre la stampa si scatena denunciando le complicità nei suoi confronti. Il peggio arriva però a dicembre. A Bruxelles, in francese, viene pubblicato un libello di 32 pagine intitolato «La verità intorno agli uomini e alle cose del Regno d'Italia», firmato J.A., antico agente segreto del conte di Cavour. Il libretto, diffuso clandestinamente anche in Italia, contiene rivelazioni scottanti su quanto si sarebbe mosso dietro alle rivoluzioni e ai plebisciti nell'Italia centrale. A scriverlo pare sia stato, per vendetta, proprio l'ex questurino e, ora si sa, ex agente segreto Filippo Curletti, con l'aiuto di un'altra ex spia, Giacomo Griscelli. Secondo quanto rivelato da Curletti, in Emilia e in Toscana funzionari dell'amministrazione sono stati comprati. L'insurrezione di Firenze e poi quella di Parma sono state provocate da un'ottantina di carabinieri piemontesi travestiti, guidati dallo stesso Curletti, mentre a Modena il Granduca è stato indotto alla fuga sulla base di false informazioni, scrive Curletti. Sono convinto che sarebbe bastato un colpo di fucile per rendere nulla la cospirazione di Modena, come ancora quelle di Firenze e Parma. Ma i colpi di fucile non ci sono stati perché le forze di sicurezza erano state allontanate. Curletti accusa anche il dittatore a tempo delle province emiliane Luigi Carlo Farini di aver sottratto le ricchezze abbandonate a Modena dal Granduca. E poi, sempre a Modena, rivela di aver messo e fatto mettere nelle urne schede false tanto per le elezioni delle giunte provvisorie che per i plebisciti. Altre corruzioni e maneggi sarebbero avvenuti per conquistare le Marche e per contenere i garibaldini al sud. Rivelazioni che confermano voci già sentite. Ma Curletti è squalificato perché criminale e così, anche se si trattasse di fatti veri, nessuno ufficialmente gli darà credito. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.